solito io sono sempre con Cisco, sono tutti quella serata a Valghero, abbiamo fatto il termine, abbiamo fatto un bel, quasi tutti noi, a Luquarchè e a Maria Pia. Sì. Ma tu cosa fai, audio a tu? Tutto. Se mi capita di fare l'audio, faccio l'audio, se mi capita di fare luci, faccio luci. Un po' di tutto, scarico, faccio un po' di tutto. Tutto fare, infatti bisogna essere così, e io perché lo faccio tutto, io guido anche, tanto io guido pure, tanto io guido, faccio lo scarico, io monto il PA, e a volte stai anche o al manco, magari sul palco, e poi smonti, carichi e guidi, quindi no, si fa tutto, fai come amico. Tu cosa fai? Tutto. Io faccio tutto tranne che il fonico. Io ce l'ho proprio per contratto, ce l'ho proprio scritto, faccio audio luci, tutto. Ma più che altro di solito faccio un audio. Sì. Yes, va bene. Dai, sono contento che ti hai messo l'antenna sul tetto, così. Beh, è risolto, ti hanno dato l'autorizzazione. Raggio 4 in lui, gli hanno detto, mica domani mettono per la sorpresa, ma non permetti che la 9. Sì, è fatto bene. No, perché intanto se stai a chiedere l'autorizzazione fanno tutti i preziosi, tutte le ma invece no, bisogna stare e punirla. E se dicono, ma l'antenna sua e su, non crea danni a nessuno, non a voi sul tetto non vi interessa quello che c'è, quindi non la, io l'antenna la posso mettere, quindi non che nessuno deve fare storie. È giusto, hai fatto bene, perché poi d'inverno lo vedi. Dopo cena entri, ti fai quattro chiacchiere, noi continuo con Franco, Ponte entra Giulio, siamo qua e sul 12 e entra qualcuno da Porto Torres e facciamo quattro chiacchiere che so che è bello, la notte stare in radio, capisci? Quello sì, adesso da parecchio vero. Mettiamo arrivare in muro tutti quanti, ma niente. Ma ti pare che io devo, a casa mia devo privarmi delle cose, ma che lo ti mandi. Ma infatti, ognuno a casa sua fa quello che vuole. Il tetto, cos'è, terrazzo o spioventa tu? Conventato è sopra. Sì, ma non è un tetto calpestabile, non sale nessuno, non c'ha il terrazzo nessuno. No, non è easy, non l'abbiamo posta già da mesi l'abbiamo messa. No, non è, c'ha il tetto proprio. Ok, quindi non dà fastidio, non se gli hai messo i tiranti e le cose, e poi non se non è piano calpestio di lì, non passa nessuno, cosa si devono lamentare? Ma neanche i tiranti ci sono, perché passa. No, ok, hai fatto bene. Quanti metri è dal tetto, Anto? 2 metri sarà. Dal Torrino, capito? Dal Torrino. Ah, ok. No, poco fa ti ho detto una bugia, non sto uscendo adesso con la Grazioli. Adesso sto uscendo, perché sono col Superstar, sto uscendo con la Sirio 5 ottavi, perché ho un'antenna per ogni radio io, no? Per esempio qua nel Superstar sto usando la Sirio 5 ottavi, mentre la Grazioli ce l'ho nel Kenwood. Guarda se... Vabbè, adesso ce l'ho in un altro, in una giovana, va di, cioè, lo proviamo un altro giorno il Kenwood. Ma anche aiuto c'hai tu, Antu, da collegare? Ah, sì, già ce l'ho. Eh, telefono, il telefono fa vatto, cosa ne ha futti? No, basta un prendere già. Ah, sei già agganciato. Guarda a vedere se cambia. Ma no, la radio è rimasta invariata e sei sceso a Santiago 8, non da 8 a 9, 10, staccato 6-8 e attaccato 6-9-10 a picchi positivi a 9-15, però la radio è rimasta invariata. Quindi posso anche spegnere. Sì, ti copio qua benissimo, anche senza amplificatore. Gappa. Ma già andrà già. Adesso non sono molto contento, cazzo, meno male. Sì. Va bene. E adesso le prossime serate quando ce l'avete? Ti avvisano un giorno per là, un giorno prima a Balasirata. Ma se sono dei coglioni, io ho detto datemi il conto, a me non vado alle serate, io devo fare. Non me l'hanno mai dato. Penso che anche voi ci avete un coso su Facebook, non lo so. No, non abbiamo niente. Noi non abbiamo nulla, ma proprio zero. Noi ci chiama, guardate che è entrata a serata, e quindi... in stagione sì, abbiamo il calendario e lo si guarda, però quando c'è serata così esce all'ultimo, bisogna essere pronti a farla. Facebook. Io so così. Che c'è la pagina Facebook vostra? Sì, no Facebook, no WhatsApp. Ah, hanno la pagina loro WhatsApp delle serate, ma te non ti hanno messo? Esatto. Ma capirà cosa, però. Chi so che lavora con voi? E chi? Marco, è stato compreso. Oh. Oh, sonno. Non lo so. E vabbè, con noi, Marco travaglia un poco con tutti. Cazzo. Già lo so che travaglia un poco con tutti. Via. Sono di voi al giramento di... adesso non posso dire perché c'è il bambino, cioè... Di scatoletta, papà dice. Sì. E vabbè, già te lo diranno, ti chiameranno e te lo diranno cosa vuoi ti dica. Va bene. Dai. Tanto io un attimino devo fare un attimo di bianco perché devo installare una cosa in garage. Devo vedere se ha asciugato o verniciato un paio di altoparlanti miei. E l'ho fatti con la vernice natalizia, dimmi, fa bravissimo. Che bello. Sì, il rosa. Devo vedere se è fuori polvere, capito? Che se no è un casino. Che no, ho fatto questa vernice e mi è uscita la prima mano, era non andava fuori polvere, ci ha messo un po' ad andare fuori polvere col catalizzatore, poi l'ho messo un po' di più e sembra a posto, però devo controllare. E se sei qua entro 10 minuti e rientro in radio. Va bene, dai, adesso rimarrò qua un po' e vediamo. È proprio di bianco, in cui schiacciare questo. Ah, amore. Bello di papà tuo. L'umano intanto me lo porto perché a lui piacciono queste cose, capito? Cosa gli piacciono le radio? Ehi, sta sempre guardando, sta sempre forrogendo. dargliela una vecchia. Una vecchia prende e gliela dai a giocare. Troppo già, sì. E dagliela, dagliela, adesso vedo, io non ne ho neanche. Oh, ma tu ci credi che io non avevo un baracchino? Io non avevo un baracchino, avevo HFB, un baracchino non ne avevo, però ho comprato apposta questo qua perché ho detto, non, cioè caspita, non faccio un baracchino. Allora se ce l'ha qualcuno un baracchino vecchio da regalo e glielo fai, glielo pulisci bene, glielo disinfetti e glielo dai a giocare. Rientro, dai, tra un po' rientro in radio, faccio un attimo di bianco. A dopo, ciao. Andiamo amore. Adesso il mio figlio quando mattino là e poi mai se ne rientro, ok? Chi è? Ci sei Antu? Ci sei Antu? Io ci sei, buonasera. Ok, prova radio 1, 2, e. Prova radio 1, 2, e, prova radio 1, 2. E prova.